Voto Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Buona giornata, gentili ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a Voto Antonio. Come sempre cerchiamo di aiutarvi a capire come potete cambiare la politica con la rete, se potete cambiare la politica con la rete e come la rete sta cambiando la politica. Avviene quotidianamente, vi porteremo anche qualche esempio tra poco. Di che cosa parleremo oggi? Parleremo di qualche caso interessante di errori marchiani fatti dai politici sulla rete. E poi ci occuperemo di partecipazione su internet, che è il grande tema del quale più o meno ci occupiamo quasi sempre. Ne parliamo perché è uscita una ricerca interessante questa settimana, realizzata da Demos, accompagnata dalle ormai consueti inviti dei partiti politici a scrivere il programma con loro. Chissà, insomma, quanto c'è di vero in tutto questo. Ne parleremo più avanti, prima qualche notizia. Ovviamente il quadro della settimana non può non riportarci a quella sorta di question time del Presidente del Consiglio e candidato Premier Mario Monti su Twitter. Operazione coronata da successo, va detto, e che merita i complimenti per il fatto stesso che è avvenuta. Insomma, speriamo che sia un buon esempio. I dubbi li conoscete già, ma sono dubbi di pura comunicazione politica. Il wow scritto da Monti quando ha raggiunto i 100.000 followers, l'uso delle faccine non proprio in linea con il modo nel quale siamo abituati a pensare il professore, ma tant'è. Altri lidi, quelli del Partito Democratico. Il sito del PD, dopo l'ormai mitica copertina sul confronto televisivo tra i candidati alle primarie, foto montati come i Fantastici 5, sta proseguendo, mi sembra, in un buon lavoro. L'idea di mettere una foto, un fotomontaggio in alto, associando un gioco di parole e una frase, funziona molto bene. La settimana scorsa era la foto di un pedalò con i nomi di Fini e Casini sopra e una frase di Renzi: pensare di innovare la politica con Fini e Casini è come doppiare Capo Orni in pedalò. E ancora ieri, dopo l'intervento di Berlusconi da Santoro, un mix tra quell'appuntamento televisivo e Masterchef. Foto dei tre chef giudici della trasmissione, Cracco, Barbieri e Bastiani, c'è dei tre protagonisti di servizio pubblico, Berlusconi, Travaglio e Santoro. La domanda: chi ha cucinato chi? Ho letto commenti discordanti, a me francamente non dispiace. Intanto Beppe Grillo prepara il suo tour in giro per l'Italia. Tsunami Tour lo ha chiamato, con massiccia dose di internet naturalmente. Alcune indiscrezioni parlano dell'intenzione di attrezzare un canale YouTube con diretta costante, un palinsesto vero e proprio, tanto degli appuntamenti di Grillo quanto di altri video. 24 ore su 24, vedremo se la cosa sarà confermata. E beh, non possiamo naturalmente far mancare una segnalazione per il popolo di Facebook. Si chiama così una sorta di partito, una lista, non sappiamo bene, che ha intenzione di presentarsi alle elezioni regionali nel Lazio, fondato da tale Francesco Battaglia. Ha intenzione, a quanto pare, di raccogliere le proposte, appunto, degli utenti di Facebook per farne un programma politico. Adesso è il momento del traffico, ci ritroviamo tra un attimo per il punto di Stefano Folli. Voto Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci, qualche notizia ve l'abbiamo data poco fa a proposito di vari partiti. Più avanti, come si diceva, toccheremo il tema più in generale della partecipazione politica in rete, ma anche degli errori che possono fare i politici in rete e quello da cui devono guardarsi. Ma adesso veniamo alla sostanza con il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno. Ti chiederei di partire, lo so che insomma, è un po' così, però partiamo dall'evento televisivo della settimana, insomma, questo incontro... scontro Santoro-Berlusconi, insomma, devo dire la verità, che alla fine il cavaliere, quando viene messo nell'arena, dà il meglio di sé, insomma. Sì, ma sai, dà il meglio di sé nel cabaret, quello di l'altra sera è stato cabaret puro, interessante da seguire, a tratti anche divertente. È stato noiosissimo quando si è parlato, diciamo, di politica, quelle risposte prolisse, la testa tutta rivolta al passato, contraddizioni incredibili che dovevano essere spiegate in modo molto tortuoso, attraverso spiegazioni lente, contorte, tutta quella tirata su quanto è lungo l'iter legislativo. Insomma, poi nelle parti in cui diciamo c'era un po' di teatro, Berlusconi è brillante, certo è un grande combattente, è anche brillante, ma insomma non c'entra nulla la pulire con uno strofinaccio la sedia dove si era seduto Travaglio non è che sia, diciamo, politica, credo, no? No, quindi, decisamente insomma, no. Distinguiamo i due piani, ecco, sì. Distinguiamo i due piani. Il piano della comunicazione, il piano della capacità televisiva e appunto il piano della politica vera e propria. Poi avrà anche recuperato qualche punto nei sondaggi dopo questa cosa, non dico di no, ma c'è da essere leggermente preoccupati se questo è il tipo di messaggio che viene dal rappresentante di quella che oggi è la seconda, accreditata come la seconda forza del paese. Stefano, complessivamente sembra, e tu lo hai detto tra l'altro nel punto che hai fatto settimanalmente per noi, che sia la campagna di Bersani che quella di Berlusconi si stiano concentrando, forse era anche prevedibile, nel dare addosso all'attuale presidente del Consiglio. In parte perché può essere Monti un ostacolo, no? Ad una maggioranza forte, dall'altra parte perché comunque fa comodo scaricare su quest'ultimo anno di governo, insomma, una serie di problemi, una serie di questioni. Certo, certo. Si scarica sull'anno di governo tutte le questioni che in questo momento si teme che possano impedire la ricerca del consenso popolare. Secondo me si dovrebbe fare invece una cosa diversa, perché i dati ultimi che ci vengono dai mercati finanziari sono molto buoni. Lo spread è basso come da tempo immemorabile non era. I tassi di interesse sui titoli che dobbiamo collocare sul mercato sono bassissimi. Le aste sono andate molto bene. Insomma, ci sarebbe ragione per cui le forze politiche che, bene o male, hanno sostenuto il governo Monti per un anno, insomma, dovrebbero anche mettere in luce questo aspetto. Invece si accapigliano e sembra che il governo Monti sia stato il governo che ha fatto solo danni, no? Il che è vagamente paradossale. Però sono le leggi della campagna elettorale e anche le leggi di questo nostro bipolarismo distorto, a cui sia il PDL di Berlusconi, adesso di nuovo rappacificato con la Lega, sia il PD di Bersani sono un po' troppo affezionati, no? E quindi il terzo incomodo deve essere colpito e bastonato da una parte o dall'altra. La settimana comunque della presentazione delle liste, e ti chiedo di rimanere in ambito Monti, se ti va, Stefano, per parlare di candidature delle quali si è discusso, perché sembravano non far parte di quello che potesse essere l'ambito del professore, no? Abbiamo visto anche candidature, possiamo chiamarle di facciata, per esempio Annalisa Minetti, che lo ricordiamo non è Nicole, ma è insomma l'atleta cantante, paralimpica, cantante, vincitrice di Miss Italia, e anche quella di Valentina Vezzali. Insomma, sono scelte che forse dal professore, da quell'ambito là, non ci si aspettava. Ma insomma, c'è una ricerca di voler non essere da meno rispetto agli altri, no? Rispetto all'abitudine tipica dei partiti di mettere in lista dei personaggi dello sport, dello spettacolo, che servono, diciamo, a costruire un'immagine. Il Partito Democratico mette come capolista Josefa Idem, no? La grande, certo, campionessa di canottaggio. La Vezzali è una straordinaria schermitrice, un atleta che ha fatto onore all'Italia. Quanto questo serve a definire l'immagine di una forza politica non saprei, però c'è questa tendenza. Insomma, sulle liste bisogna osservarle, è un gioco che i giornalisti giustamente fanno, di guardare come sono fatte le liste, chi sono i personaggi nuovi, simbolici, eccetera. Al tempo stesso però non bisogna dimenticare che una forza politica si presenta un po' per il suo messaggio politico, buono o cattivo che sia, più che per le sue candidature. Certo, poi posto che il 70-80% di queste candidature di facciata o comunque di grido, mettiamola così, finiscono tra i peones mediamente in Parlamento, cioè gente che sta là e che poi, insomma, di attività politica vera e propria finisce, e decisionale vera e propria, insomma, finisce per farne poca, no Stefano? Sì, certo, certo. Senti una cosa, io passerei a parlare a questo punto proprio del Partito Democratico e sì, uscendo dalla questione delle liste, no, e venendo più al posizionamento politico del PD, un tema del quale abbiamo parlato naturalmente anche la settimana scorsa e che ritorna perché le aperture verso il centro e verso Monti di Bersani sono state abbastanza nette, abbastanza chiare in realtà nella giornata di ieri anche quelle di Vendola, seppure ha detto, insomma, si scordi un posto al governo, se vuole appoggiarci ci appoggi. Sì, insomma, fa parte della guerra di posizioni che si sta combattendo in questo momento. Vendola più di questo non può dire, diciamo, per poter stare dentro quell'alleanza, e non può rompere i rapporti con il Partito Democratico perché c'è la prospettiva di un'intesa con Monti. Però è evidente che dopo il voto si resetta tutto questo, si resetta tutto quello che viene detto in campagna elettorale, tutte le polemiche che vengono fatte, si resetta tutto e si comincia un nuovo percorso. E questo percorso sarà fondato unicamente sul peso, diciamo, dei numeri elettorali, su quali saranno le maggioranze, i pesi, se al Senato, punto fondamentale, ci sarà o non ci sarà una maggioranza. Sarà solo quello che poi indurrà le forze politiche a una forma di realismo. Il realismo vuol dire tutto, vuol dire anche una coalizione tra Bersani e Monti, con un equilibrio che adesso non possiamo definire perché appunto dipenderà dai numeri, e nella quale Vendola dovrà far buon viso a cattivo gioco se quella sarà l'unica possibilità di garantire la stabilità al paese. E Fassina, un altro indicato, diciamo, come portatore di stanze di sinistra conservatrice, come dice Monti, Fassina è tornato dall'Inghilterra l'altro giorno e ho parlato con il mondo finanziario che guarda all'Italia, guarda anche alla possibilità che il Partito Democratico vinca le elezioni, ma ci chiede stabilità. Ecco, stabilità che cosa vuol dire? Vuol dire un governo tutto orientato a sinistra? No, vuol dire un governo che abbia un baricentro in una chiave più moderata, più centrista, che guarda l'Europa. Insomma, questa è la partita che si giocherà dopo il 24 febbraio. In che termini? Oggi non lo possiamo dire, possiamo soltanto così immaginarlo. Abbiamo parlato molto di liste, abbiamo parlato molto di alleanze, ma inevitabilmente in queste settimane è così, insomma. Io però ti voglio portare per questi ultimi due minuti che abbiamo, Stefano, invece su una questione di sostanza, ossia il fatto che finalmente tutti sembrano aver scoperto la questione fiscale, che è il problema centrale, uno dei problemi centrali, forse il problema centrale di questo paese. Persino Grillo ieri ha detto, insomma, no, io sono contrario alla patrimoniale. È un tema che inizia ad entrare piano piano e che secondo me entrerà sempre più duramente all'interno della campagna elettorale, no? No, tu hai ragione, però allora bisogna anche qui distinguere. La questione fiscale in Italia è una priorità, è un dramma un paese che è costretto a soffocare di troppe tasse perché non riesce a trovare altrimenti il modo di far quadrare i conti. È un dramma, soffoca la crescita, soffoca le famiglie, soffoca le individualità, le speranze, soffoca tutto. E questo è una priorità politica che chiunque governi dovrebbe porsi al centro. Poi c'è la campagna elettorale. In campagna elettorale è molto facile promettere, è molto facile dire, ah certo, c'è il problema fiscale, abbattiamo le tasse, abbattiamo l'IMU, risolviamo tutto. È semplicissimo promettere in campagna elettorale. È molto difficile poi avviare delle politiche serie che ottengano dei risultati in questo campo. È molto più facile tassare. Ecco, io spero che questa campagna elettorale non sia soltanto la fiera di una rincorsa demagogica, no? In cui c'è Berlusconi che ha preso la testa, perché lui sul piano delle promesse è straordinario, no? Ha promesso di togliere l'IMU e naturalmente gli altri sono costretti a rimodulare tutto e a non restare troppo indietro. Però speriamo che sia l'inizio di una riflessione seria sulla politica economica per questo paese, non sia soltanto il classico fuoco di paglia. Non ci conto molto, Stefano. Però... nemmeno io, ma lo capisci dal tono scettico con cui ti sto rispondendo, no? Grazie Stefano Folli anche per questa settimana, buona grazie giornata. Grazie a te, ciao. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una breve pausa, ci ritroviamo tra un attimo e continuiamo a parlare di campagna elettorale, perché parliamo di errori, di quali errori i politici non devono fare quando affrontano la rete, quando affrontano internet. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci, bentornati. In questa seconda parte vogliamo raccontarvi, cercare di capire, aiutare anche i nostri politici se volete, a capire come non fare errori sulla rete, ma anche aiutare voi a capire quando, insomma, c'è un comportamento non proprio efficace su internet, a parte che ve ne accorgete da soli, insomma, se ci state sopra. Però, insomma, è interessante fare un punto, vedere un po' quali errori ci sono. Lo facciamo con Dino Amenduni, vecchia conoscenza ormai di questa trasmissione, anche se la trasmissione ha solo 3-4 mesi di vita circa. Buongiorno Dino. Buongiorno a tutti voi. Che chiamiamo spesso molto semplicemente perché è bravo, si occupa di comunicazione politica per Proforma, è un'agenzia di comunicazione e di, appunto, consulenza politica, di consulenza per la comunicazione politica, si occupa di Dino Amenduni della parte internet, appunto, e ha creato una bellissima presentazione, anche molto divertente, proprio sugli errori che vengono fatti dai politici su internet. La trovate, se la cercate la trovate su SlideShare, naturalmente. Allora Dino, iniziamo a fare un quadro generale. Allora, c'è un problema di fondo che accomuna moltissimi politici, cioè l'idea che il web sia un posto dove si raggiunge un pubblico in aggiunta a quello che si raggiunge sui mezzi tradizionali, per cui i contenuti pubblicati su Facebook, su Twitter, su internet sono del tutto speculari ai contenuti prodotti per i mezzi tradizionali, quando Facebook, Twitter hanno delle retoriche, dei linguaggi tipici, e quindi questo tipo di operazione non raggiunge il risultato sperato. Si utilizza un codice dei mezzi tradizionali sui nuovi media, questo è l'errore più comune, cioè la mancata personalizzazione dei contenuti sulla base della piattaforma dove si è. E questo è un problema, ripeto, che accomuna moltissimi politici. Entrando poi nello specifico degli strumenti, ci sono alcuni errori sistematici che bisogna evitare a tutti i costi. Il primo errore è quello di pensare ai social media come un luogo dove si possano dire delle cose che non si possono sostenere anche all'interno di una piazza piena, una piazza gremita. Ci sono alcuni casi che sono diventati un po' prototipici, ad esempio lo sfogo di Marta Vincenzi, sindaco di Genova, dopo che perse le primarie del centrosinistra, e iniziò a twittare in modo anche molto rapido, 5-6 tweet in pochi minuti, sfogandosi contro tutti e contro tutto. In questa fase lei sostanzialmente stava facendo delle dichiarazioni pubbliche, però è come se non si fosse resa conto del fatto che non stava parlando semplicemente ai suoi follower, ma potenzialmente a tutta la Twitter sfera, a tutti, sì, gli utenti che potevano leggere quei messaggi. Sì. Un altro tipo di errore classico è quello di trasformare una non notizia in notizia, cioè andarsi in qualche modo a mettersi nei guai da solo. Ci fu un caso anche qui verso ottobre, quello di Maurizio Gasparri, il capogruppo del Senato del PDL, che nel rispondere a un utente che lo stava prendendo in giro dicendogli che non capiva nulla di calcio, come argomento utilizzato per rispondergli, non entrò nel merito della questione, ma disse a questo utente che non meritava di ricevere una risposta perché aveva 48 follower su Twitter, come se questo rappresentasse in qualche modo un elemento per cui l'interlocutore potesse essere ignorato. Il famoso io so io del Marchese del Grillo, insomma, per intenderci. Esatto. Questo scambio ovviamente è uno scambio tra Gasparri e un utente con 48 follower, ma all'interno di un pubblico, quindi quella notizia è diventata tale ed è diventata Gasparri maltratta un utente su Twitter. Anche qui, in questo caso, Gasparri avrebbe potuto ignorare o rispondere in un'altra maniera, invece si è creato da solo un problema abbastanza poi difficile da risolvere. Un altro problema tipico, soprattutto per Twitter, quello dell'utilizzo dei retweet, cioè del rilanciare contenuti prodotti da altri utenti in qualche modo citandoli. Spesso questa operazione viene vissuta con una certa leggerezza, in qualche modo i politici tendono, in alcuni casi è successo, a prendere un contenuto di altri e a citarlo, in questo modo in qualche modo si sentivano liberi dalla responsabilità di aver detto quella cosa. Ma in realtà un retweet, soprattutto su profili pubblici, equivale a una presa di posizione personale. Quindi sì, tra l'altro aggiungo, Dino, che di questo abbiamo parlato nella puntata della settimana scorsa, parlandone proprio per i rischi che può rappresentare un retweet dal punto di vista legale, però insomma qua stiamo parlando dei rischi che può rappresentare dal punto di vista politico, quindi vai, procedi. Sì, ci furono due casi abbastanza eclatanti, uno che è relativo a Podestà, il presidente della provincia di Milano, che ritwittò un tweet di un utente che in qualche modo paragonava Pisapia a un esponente delle Brigate Rosse. Ci fu un retweet che creò subito una polemica e dopo qualche ora, in modo anche piuttosto goffo, dall'account di Podestà fu dichiarato un errore dello staff. Questo è un altro tipico problema: quando i politici fanno errori, poi dopo 3-4 ore dicono che è colpa dello staff o di un hacker. Fateci caso, perché accade fin troppo spesso. Idem per Alemanno, che fece un retweet a un tweet in cui veniva chiesto di liberare Torino dagli zingari, dai nomadi, e anche qui è una cosa abbastanza pesante dal punto di vista politico. Certo, naturalmente. Altro? Sicuramente leggere con attenzione i tweet che vengono rivolti ai politici, perché in alcuni casi ci possono essere delle trappole. Il caso più eclatante è quello della famosa moschea di Sucate durante le amministrative del 2011 a Milano, dove Letizia Moratti iniziò a rispondere in modo sistematico al ballottaggio a tutte le domande che gli arrivavano via Twitter per tentare di recuperare il ritardo rispetto a Pisapia su questo tipo di tema, e non si rese conto che tra le domande gli fu rivolta una domanda sulla inesistente moschea dell'inesistente quartiere di Sucate in via Puppa, e Letizia Moratti dall'account Twitter rispose invece seriamente a questo tweet, dimostrando attraverso l'account ufficiale di non conoscere il quartiere della città, perché evidentemente Sucate non esiste, e facendo partire una enorme ondata di satira che era successiva alla quella del primo turno, il famoso colpa di Pisapia, dopo che ci fu il confronto TV e un'accusa infondata rivolta dall'ex sindaco di Milano all'attuale sindaco. Certo, c'è chi considera tra l'altro quell'episodio della moschea di Sucate un punto di svolta della campagna elettorale di Pisapia, no? Sì, entrambi gli snodi sono stati su Twitter, sia al primo turno quel famoso colpo di Pisapia con il confronto TV che diventò un enorme momento di satira collettiva, che ottenne il risultato da un lato di delegittimare Letizia Moratti come interlocutore, dall'altro creò una sorta di effetto simpatia nei confronti di Pisapia, che poi andò molto bene al primo turno. Al secondo turno Letizia Moratti aveva 6 punti di ritardo, ovviamente mossa dalla necessità di fare qualcosa di molto brusco, molto forte sul web, cercò in qualche modo di trovare delle procedure standard di risposta, quindi se qualcuno chiedeva su Twitter notizie di moschee in generale davano risposte fisse. Quando un utente si è reso conto che queste risposte erano un po' troppo uguali a prescindere dal tweet, c'è stata questa trappola, in questa trappola Letizia Moratti con il suo staff è caduta in modo assolutamente netto e ha riattivato la rete della satira che si era già attivata al primo turno. Ultima domanda che ti faccio, Dino, è di portarci un esempio estero. Tu alla fine del decalogo, di questo decalogo, dici un errore, insomma tra gli errori che si possono fare, un errore così grande da cancellare i meriti politici del mittente. Sì, parlavo del caso di Anthony Weiner, che è un deputato democratico che è stato costretto a dimettersi dal ruolo di deputato dopo che ha fatto probabilmente il più grave e imbarazzante errore che possa capitare. Sostanzialmente inviò un tweet con una foto intima rivolta a una ragazza di 21 anni che era la sua amante, Weiner era sposato, però invece che mandarla come messaggio privato su Twitter la inviò pubblicamente sulla sua timeline, e quindi questa foto intima, cioè una foto dei propri organi genitali, diventò una foto disponibile per tutti. E ovviamente Weiner fu preso prima alla berlina e poi fu costretto prima a tentare di minimizzare al massimo l'accaduto, e dopo 3 settimane di contestazioni senza fine fu costretto a dimettersi. Ovviamente la sua carriera è stata fortemente condizionata da questo singolo unico tweet. Grazie, grazie Dino Amenduni, e dico ai nostri grazie ascoltatori, se avete storie di questo genere che avete raccolto in giro da politici nazionali o locali, segnalatecele, votantonio at radio24.it, oppure al mio account Twitter Simone Spezia, quello di Votantonio, votantonio R24, sulla nostra pagina Facebook, insomma cercatela e ci trovate, così come trovate Dino Amenduni, basta cercare su Google, insomma qualcosa di lui lo trovate. Adesso ci occuperemo di politica e partecipazione. Come si diceva, parliamo di politica e partecipazione adesso, innanzitutto partendo da alcuni dati piuttosto interessanti che sono usciti in questa settimana dall'osservatorio Demos Coop, e poi approfondiremo il tema della politica e della partecipazione, perché sono settimane nelle quali, lo avrete visto, quasi tutti i partiti stanno dicendo, tranne i principali, scrivi il programma con noi, ma insomma dietro tutto questo poi c'è la volontà davvero di far sì che i cittadini, gli eventuali aderenti, scrivano questo programma, o è alla fine partecipazione solamente di facciata? Vedremo quanto saremo in grado di approfondire tutto questo. Saluto Luigi Ceccarini, docente di scienza politica all'Università di Urbino, tra i curatori della ricerca Cives.net per l'osservatorio Demoscope. Buongiorno Ceccarini. Buongiorno a tutti voi. E saluto il professor Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino. Buongiorno De Martin. Buongiorno a voi. Inizierei dai dati, Ceccarini. Che cosa sono questi Cives.net o Cittadini 2.0? Insomma, chiamiamoli come vogliamo. Ci spieghi chi sono, quanti sono e che cosa fanno in rete? Sì, sono un segmento di cittadini tra i quali noi abbiamo diviso, come dire, la popolazione in quattro diversi tipi, coloro che non sono in rete, cioè che li abbiamo definiti gli offline, gli internauti, coloro che navigano ma per ragioni, come dire, non necessariamente di tipo civico-politico, ma per avere delle informazioni, come dire, per carattere quotidiano, svago, eccetera. Poi ci sono quelli che abbiamo definito gli infonauti, coloro che si informano, ad esempio, nei quotidiani online, anche comunque seguendo qualche blog, eccetera. E poi abbiamo invece, soprattutto, che è la componente, come dire, più impegnata, che è quella che abbiamo definito appunto cittadini.net, cives.net, che sono quelli che anche discutono in rete, cioè partecipano nei blog, nei social network, oltre che ad informarsi, postando una serie di informazioni, una serie di considerazioni, punti di vista, quindi discutono, cioè quello che... Quanti sono? Quanti sono secondo la vostra analisi? Allora, secondo questa nostra stima, ormai si sono stabilizzati, nel 2010 erano intorno al 25%, e quest'anno, questa è un'indagine ricorrente, sono all'incirca sul 28-29%, quindi, come dire, sono all'incirca un quarto dei cittadini italiani, quindi... È un numero interessante. Che cosa fanno costoro sulla rete? Voglio capire un po' meglio, insomma, cioè al di là del vanno oltre la discussione, si impegnano politicamente, cercano nuove forme di partecipazione, che cosa fanno? Allora, questi sono cittadini più impegnati, è quello che mi preme sottolineare, non solo nella rete, ma anche, come dire, nella vita quotidiana. Sono soggetti che sono particolarmente attenti, sofisticati, competenti, dispongono anche quindi di maggiori risorse che facilitano loro questo tipo di impegno, quindi sono generalmente più istruiti, sono più giovani, tendenzialmente classi medie, ceti medi impiegatizi, professionisti, che oltre ad informarsi, oltre a discutere sui blog, sui social network, però discutono anche in famiglia, nelle reti amicali, firmano petizioni online e offline per sostenere una qualche campagna di informazione. Sono coloro che sono anche più attivi, come dire, un po' a tutto tondo, ecco, potremmo dire. Sono soggetti, cittadini partecipanti, che usano la rete come un'estensione della sfera pubblica tradizionale, anche appunto portandola nel mondo del web. Ecco. Infine le chiedo, Ceccarini, ed è l'ultima domanda, come sono distribuiti nell'arco, insomma, centro-sinistra, centro-destra, Movimento 5 Stelle e via dicendo? Questo è molto netto, e anche una conferma alle diverse rilevazioni, e quindi, come dire, ci crediamo davvero in questo tipo di orientamento, e che tendenzialmente sono maggiormente orientati verso sinistra, quindi i cittadini.net, come abbiamo definiti, tendono ad identificarsi più nelle posizioni di sinistra e centro-sinistra, e man mano sono sempre di meno la componente di quelli che si riconosce nelle altre posizioni. Tuttavia, se andiamo a vedere per come dire, per partito, per intenzione di voto, è interessante vedere che poi la componente più ampia la ritroviamo proprio nell'elettorato del Movimento 5 Stelle, quasi la metà degli elettori, almeno coloro che esprimono l'intenzione di voto nei confronti del Movimento di Grillo, possono essere considerati appunto cittadini.net. Sono il 39% nei ripartiti di aree di centrosinistra che abbiamo raggruppato assieme, il 29% in quelli di centro e il 19-20% in quelli di centrodestra. Quindi è molto netto, come dire, l'orientamento politico di questi cittadini. Grazie Luigi Ceccarini, docente di scienza politica all'Università di Urbino, tra i curatori della ricerca Cives.net. Abbiamo ancora in linea Juan Carlos De Martino, col quale parleremo subito dopo la viabilità di questo e di altre questioni che riguardano appunto la partecipazione attiva dei cittadini alla politica tramite la rete. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. E siamo dunque con Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro Nexa su Internet e società del Politecnico di Torino. I dati Demos ci danno lo spunto per affrontare un tema. Lo avete sentito in questi giorni, vi staranno martellando alcuni partiti, soprattutto i piccoli, in questa fase di campagna elettorale. C'è chi come Fratelli d'Italia dice scrivi con noi il programma, c'è chi come il candidato alla presidenza della regione Lombardia Roberto Maroni dice, ha lanciato una cosa che si chiama Dillo a Maroni per scrivere il programma insieme. C'è da capire, professor De Martin, quanto poi tutto questo vada a finire nella pratica, insomma, quanto non sia un'operazione in realtà solamente di facciata, e perché, consentite l'espressione gergale, fa fico stare su internet e dire che si scrive il programma con i cittadini. Sì, è probabile che stiamo vedendo i primissimi passi, e quindi è inevitabile che ci sia anche questa componente, come dire, di moda, per cui Twitter è esploso in questi ultimi mesi anche tra persone che prima disdegnavano la rete, e quindi vediamo anche questi primi tentativi, a volte forse ancora superficiali, di provare a coinvolgere i cittadini anche in operazioni complicate come la redazione di un programma politico. Redazione di un programma politico, insomma, che bisogna vedere poi appunto quanto viene riportata nella pratica, perché insomma, chi lo ha fatto un po' seriamente, in questa trasmissione ne abbiamo parlato, come i pirati tedeschi con Liquid Feedback, o anche un pezzo del Movimento 5 Stelle, lo ha fatto il Movimento 5 Stelle Sicilia, che ha redatto il suo programma appunto con Liquid Feedback, insomma, usa sicuramente altri mezzi e, ci si permetta di dirlo, speriamo di non violare la par condicio, anche una serietà maggiore, no? Sì, perché l'uso stesso dello strumento Liquid Feedback, che adesso è relativamente popolare semplicemente perché è la prima incarnazione di una serie di software che si svilupperà in maniera più sofisticata negli anni a venire, almeno questo è quello che io penso, e questi strumenti sono molto più mirati a fare attività politica che non le piattaforme generaliste tipo Facebook. Chiunque di noi che ha provato a fare una discussione un minimo articolata usando Facebook sa benissimo che è uno strumento limitato. Per tanti motivi, proprio perché pensato in maniera generalista. Quindi questi strumenti, tipo appunto Liquid Feedback, invece sono stati pensati come caratteristiche del software per aiutare a condurre una discussione con diverse fasi e con un'attenzione specifica arrivare a decisioni su temi di tipo politico. Vorrei capire da lei, professore, dove ci può portare tutto questo, cioè questo incremento della partecipazione dei cittadini alla politica, tanto durante la fase precedente, quindi la campagna elettorale, la vita stessa dei partiti, e poi durante un eventuale mandato parlamentare o insomma mandato consiliare in un consiglio regionale, un consiglio comunale o strutture di questo genere, istituzioni di questo genere. Ma allora c'è sicuramente un motivo di quantomeno vedere delle potenzialità, cioè grazie a internet, grazie agli strumenti che già abbiamo, ma ancora più svilupperemo nei prossimi anni, c'è la possibilità concretamente di fare quello che scienziati politici hanno pensato e discusso in questi ultimi decenni, particolarmente dagli anni 80 in avanti, cioè provare a realizzare forme di democrazia che qualcuno ha chiamato forte e che in genere hanno una componente partecipativa importante. Allora è chiaro che con internet questa componente partecipativa potrebbe essere articolata in maniera più facile e anche in maniera più sofisticata. Quindi la speranza è di provare a mettere in pratica proposte che prima erano fondamentalmente ristrette, tranne alcuni esempi virtuosi, all'ambito di chi si occupava delle scienze politiche, vederle concretamente in pratica. Chiaramente c'è il pericolo, a cui accennava anche lei, c'è il pericolo che in realtà sia tutto, o meglio, che sia principalmente una specie di operazione di marketing politico, perché è di moda, ma che poi concretamente non si riesca a incidere sulla struttura dei partiti, sulla distribuzione del potere, sulle effettive decisioni della politica, insomma. Un altro spunto interessante, almeno a mia opinione, è questo, è la questione democrazia rappresentativa, democrazia diretta. So che il discorso può sembrare eccessivamente ampio in questo modo, però ve la porto con un esempio. Quando abbiamo fatto la puntata per parlare di Liquid Feedback, che lo ripetiamo è questa sorta, questo software che è una sorta di social network al quale si accede con credenziali particolari, con il quale si possono presentare delle proposte di legge, tanto per fare un esempio, vi sono in Germania anche delle applicazioni istituzionali di questa cosa qua, cioè raccolta firme per petizioni e leggi che poi effettivamente vengono portate in un Parlamento locale, quindi è un esperimento interessante. Quando abbiamo fatto questa puntata abbiamo messo a confronto l'opinione dei pirati tedeschi, del partito dei pirati tedeschi, con quello del Movimento 5 Stelle Sicilia, appunto. Nel primo caso quelli dei pirati tedeschi, il coordinatore di Liquid Feedback ci ha detto: beh, insomma, i nostri parlamentari comunque non hanno vincolo di mandato, come esattamente come avviene in Italia, e quindi poi è chiaro che noi esercitiamo un controllo, però insomma fanno quello che gli dice la loro coscienza perché sono degli esseri umani. Dal Movimento 5 Stelle abbiamo sentito una versione diversa, insomma un'idea di controllo costante e invadente quasi sull'operato del parlamentare o dell'eletto. Allora, per fare una cosa di questo genere, insomma, per agire in questo senso, professore, ci vuole anche un po' di cultura politica, perché i rischi che si arrivi appunto al liberarsi, a ritenere che ci si possa liberare, se non formalmente, almeno dal punto di vista sostanziale, del vincolo di mandato del parlamentare è forte. Sì, di cultura politica e poi comunque una scelta politica, perché anche quella di abbracciare una forma di democrazia diretta è una scelta legittima, anche se non è quella prevista dalla nostra Costituzione. A me personalmente, quindi qua esprimo un mio parere personale, trovo molto interessante vedere in che modo può essere resa più arricchita e resa più forte la democrazia rappresentativa, cioè come articolato da Nadia Rubinati, da altri pensatori, la democrazia rappresentativa, se correttamente implementata, può avere un di più rispetto a quella diretta. In fondo la visione diretta del Movimento 5 Stelle è quella del 1995 negli Stati Uniti, quando Newt Gingrich, speaker della Camera dei Deputati, si immaginava, grazie al web che stava proprio nascendo in quegli anni, di poter avere una specie di town hall continentale che comprendesse tutti gli Stati Uniti. Quel sogno o quell'incubo, secondo i punti di vista, è terminato. È molto più interessante, a mio avviso, invece provare a immaginarci un sistema rappresentativo arricchito, una specie di dialogo continuo tra l'elettore e il proprio eletto, che in questo modo può mantenere il polso tra un'elezione e la successiva, quindi qualcosa di più ricco che non la visione liberale classica del voto una volta ogni 5 anni, e tra un'elezione e l'altra elettore non è più voce in capitolo. Ultima questione che voglio affrontare con lei: a me sembra, anche qua siamo nell'ambito delle opinioni personali, che sistemi di questo genere possano avere un impatto più forte sulla vita dei partiti che sulla vita delle istituzioni, cioè agire appunto all'interno dei partiti, portare ad una partecipazione maggiore all'interno dei partiti, affinché poi questo problema della delega, no, del vincolo di mandato, nemmeno si ponga, perché si agisce precedentemente, insomma, prima che il partito vada ad elezioni. Sì, lo vedo come sicuramente i due problemi sono connessi, le due questioni sono connesse, però sono abbastanza due questioni differenti, nel senso che in Italia abbiamo, a mio avviso, abbiamo un grandissimo problema di ripensamento del ruolo, delle regole dei partiti. Facciamo l'esempio tedesco precedente, l'esempio tedesco: abbiamo delle regole molto stringenti su, anche sulla vita interna dei partiti, che quindi per legge viene garantita la democraticità delle proprie operazioni, per non parlare dello stringentissimo controllo sulle loro finanze. In Italia tutto questo, come sappiamo, non c'è, e quindi l'opportunità del web potrebbe essere proprio un'opportunità, e qualcuno lo sta discutendo, di dire: ma che cos'è un partito politico a inizio del XXI secolo, che obiettivi vogliamo che raggiunga e in che modo il web può essere uno strumento potente per raggiungerlo. Quindi il web come uno strumento per un fine che in realtà è invece politico e democratico. Naturalmente, con il grosso ostacolo che tutto questo può avvenire solo in un processo top down, cioè dall'alto, calato dall'alto verso il basso, molto difficile che avvenga in direzione opposta, naturalmente, perché insomma i partiti hanno i loro vertici, devono decidere loro, no? Sì, noi stiamo vedendo, siamo in campagna elettorale, stiamo vedendo come alcune formazioni tendenzialmente più piccole stanno provando in realtà a ripensare il che cos'è un movimento politico, in che modo si trasforma in un partito, che tipo di partito. Quindi è chiaro che sono i piccoli che stanno prevalentemente sperimentando, perché ovviamente nelle realtà esistenti la sperimentazione, se è seria, va poi a intaccare sulla distribuzione del potere, e noi sappiamo quanta resistenza c'è a fare questo. Grazie, grazie al professor Juan Carlos De Martin, co-direttore del Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino, e buona giornata. Grazie, buona giornata. E noi chiudiamo qua anche questa puntata di Votantonio. Un ringraziamento a Pietro Lacorte in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Vi ricordo i nostri contatti: votantonio@radio24.it è l'email, votantonioR24 è l'account Twitter della trasmissione. Simone Spezia è il mio account Twitter. Buona giornata.